il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Un'idea nata in terrazzo è quella che ha portato Filippo Vettorato e la moglie Federica Manfrin, residenti sui Colli Euganei, a sviluppare un'originale iniziativa di e-commerce, la vendita di prodotti per farsi il proprio giardino in casa. Perché c'è sempre più gente che coltiva in proprio e molti sono quelli che vorrebbero farlo ma non hanno a disposizione che piccoli spazi. Ma anche per loro ci sono soluzioni. Quali? Abbiamo proprio con noi oggi Filippo che ci può dare qualche suggerimento utile che poi potete ritrovare appunto nel loro sito internet www.ortosulterrazzo.it. Benvenuto Filippo. Ciao a tutti. Allora, era curioso il nome del vostro sito internet, Orto sul Terrazzo. Sappiamo appunto che c'è sempre più gente che coltiva qualche cosa, piante, ma anche piante per cibarsi, quindi non solo le erbe aromatiche, sul terrazzo. Ma partiamo dalla base. Come vi è venuta l'idea di creare questo sito internet specializzato su questo tema? Sì, come spesso capita, anche nel nostro caso, molto semplicemente noi abbiamo un terrazzo a casa e un bel giorno abbiamo detto, ma perché non proviamo anche noi a coltivare, oltre che i fiori, anche coltivare qualcosa di più commestibile? E quindi, avendo un bel terrazzo anche grande, ci è venuta l'idea così di provare il primo anno a fare una piccola coltivazione di lattuga, utilizzando all'inizio come contenitore un grande sottovaso che avevamo a disposizione di un grande vaso, e quindi mettendo un po' di terra dentro abbiamo visto che la cosa funzionava, che dopo circa 3 settimane avevamo già la lattuga pronta da mangiare, da portare in tavola. Ecco, da qui poi l'idea è venuta successivamente di sviluppare la cosa non solo per l'autoconsumo, ma cercare di andare un po' a curiosare in giro per capire se ci fosse qualcosa di più complesso, più completo, diciamo, per poter coltivare sul terrazzo. Abbiamo visto che le soluzioni sono tantissime, efficacissime, permettono di riprodurre in superfici che non hanno terra, è veramente una ricchezza di varietà di verdure e frutta che veramente sono paragonabili a quelle degli orti in pieno campo. Perché in effetti non stiamo parlando solo di orti sul terrazzo, ma queste soluzioni sono adatte anche, per esempio, per zone dove si può coltivare fuori terra. Penso ad esempio di esperienze che ho visto all'estero di recente in zone dismesse, tipo zone industriali, dove non si può coltivare la terra e sono nati dei giardini con coltivazioni fuori terra. Ma voi stessi avete un'esperienza a Padova, vicino alla stazione, che va proprio in questo senso. Forse ce la puoi raccontare. Sì, assolutamente sì. Diciamo che la tecnica si chiama è quella della coltivazione in contenitore fuori suolo, come dicevi tu, e quindi è quella tecnica che permette di coltivare in qualsiasi luogo dove non ci sia terra. Quindi ecco, gli esempi che citavi tu sono significativi, nel senso che si può fare agricoltura quindi su qualsiasi superficie ricoperta di cemento, ad esempio. E le esperienze all'estero sono tantissime, ricchissime. Si pensi alle esperienze che ci sono ad esempio a New York, ma anche in Quebec e in altri anche in Europa, in Francia, Belgio, eccetera. E diciamo che in Italia il panorama è un po' siamo ancora agli inizi, quindi è tutto da costruire. Però nel nostro piccolo anche noi abbiamo cercato di riprodurre un orto all'interno di una piazza di Padova, che è Piazza Gasparotto. E assieme ad un gruppo di volontari è stato costituito quello che poi ha preso il nome di Gasparorto, ed è effettivamente un'iniziativa molto interessante, perché è un'iniziativa che tende a ricreare un orto all'interno di una piazza che storicamente era considerata ai margini della città e non vissuta, era una sorta di non luogo della città, e in questo modo abbiamo contribuito a trasformarlo in un luogo frequentato. E quindi attraverso l'orto portiamo energie positive, persone sulla piazza, e la facciamo rivivere attraverso l'orto. Ecco, queste iniziative sono, dicevi, più diffuse all'estero. perché ci sono problemi di spazio, non credo, forse una maggiore sensibilità o un'abitudine a coltivare in casa, quindi non nell'orto dietro casa, ma proprio in casa, o perché in Italia è ancora una cosa nuova? Ecco, questo è uno dei tanti paradossi italiani. Se pensiamo alle zone climatiche italiane, da nord a sud sono comunque tutte favorevoli allo sviluppo di un orto in pieno campo, ma anche fuori suolo. Ecco, le esperienze più significative paradossalmente sono nei paesi del nord, citato prima il Quebec, ma diciamo che anche gli orti sociali, le esperienze degli orti sociali sono molto sviluppate, ad esempio anche in Germania, ecco, paesi in cui il clima non favorisce tipicamente la coltivazione, però gli orti sono molto più sviluppati perché storicamente c'è una tradizione molto più sviluppata rispetto a quella italiana di fare l'orto casalingo, e di conseguenza si è assunto successivamente una sensibilità maggiore anche per quanto riguarda gli orti fuori suolo. Ecco, vorremmo adesso sapere qualche cosa di più su quali sono le soluzioni che proponete e anche quali piante vengono meglio diciamo in casa, però ne parliamo tra qualche minuto, ci fermiamo. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Sunday morning, got the hazy jeans. I turn to you and inhale you where you lay. Took a wander through the garden to await the long, long day, and then roll for a while on a violet flower bed. Oh, you kiss my lips again and again and again, and then again and then. We will watch the sun coming up easy while the rain came tumbling down, and it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. It's a shame the way it seems to go, 'cause now my best friend, my partner in crime, I'm afraid it looks like we're gonna have to go our separate ways. 'Cause you see, the thing is, I love you, but you see, I resent you all the same. And all my other friends, they're just saying you're slowing me down. Oh, but I should have known you'd turn to me and say, before you throw too much of me away, don't you remember seeing the sun coming up easy while the rain came tumbling down, and it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. We've seen the sun coming up easy while the rain came tumbling down. Oh, and it washed our bodies so clean that we could feel them rise up off of the cold, cold ground. It was in love I was created, and in love is how I hope I die. Oh, it was in love I was created, and in love is how I hope I die. Oh, yeah, it was in love I was created, and in love is how I hope I die. Oh, Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di orti sul terrazzo, o meglio, gli orti fuori suolo, e ne stiamo parlando con Filippo Vettorato, che ha fatto partire un sito internet che si chiama appunto Orti sul Terrazzo, dove propone proprio prodotti per coltivare, per farsi l'orto in casa. Dicevamo che questa che sta cominciando a diffondersi anche in Italia questa passione, forse per necessità per qualcuno, di orti sul terrazzo. Che tipo di prodotti proponete? Cioè, serve qualche cosa di apposta? Penso ai vasi, ad esempio, il terriccio. Che tipo di soluzioni si possono trovare sul vostro sito? Allora, diciamo che per la coltivazione in vaso, in contenitore fuori suolo, le soluzioni sono diverse. La scelta che abbiamo fatto noi è quella di adottare delle soluzioni che siano efficaci in termini di resa per quanto riguarda poi i prodotti finali, insomma, la coltivazione, e poi anche accanto a questo anche delle soluzioni che siano molto semplici e fruibili anche da chi non ha esperienza di agricoltura in generale, e soprattutto anche da parte di chi ha poco tempo, quindi proprio adatte a chi vive in città, perché l'obiettivo nostro è quello di cercare di riportare in qualche modo vivo il contatto tra l'uomo e la terra anche in città, dove certo, tradizionalmente questo contatto c'è meno e il rapporto con la terra ormai si è perso. Ecco. Per quanto riguarda poi la parte più pratica, diciamo che nel nostro sito noi proponiamo in particolare dei contenitori speciali, insomma sono dei contenitori non in plastica o in coccio o in resina, ma sono bensì dei contenitori in tessuto, e quindi estremamente leggeri, sono versatili e hanno molti vantaggi proprio in termini di produttività e di salute anche della pianta, nel senso che sono contenitori che fanno respirare le radici della pianta, lasciano passare molto bene l'acqua, quindi sono molto ben drenati, e quindi le piante crescono molto velocemente, crescono in maniera più armoniosa, insomma, e quindi senza correre il rischio che si ammalino, cosa che avviene di frequente nelle piante coltivate in vaso, insomma. Sì, nei vasi che non lasciano passare l'acqua. Esatto. Ecco, quali piante sono maggiormente adatte per una coltivazione su un terrazzo? Allora, diciamo che in vaso si possono coltivare praticamente tutte le piante da orto, indistintamente. Si può fare più un ragionamento di priorità in base alla disponibilità di tempo e di impegno che ogni persona può dedicare a questa attività. Ecco, diciamo che la cosa più prioritaria, secondo noi, è quella di dotare l'orto di delle prime erbe aromatiche, ad esempio, da tenere vicino alla cucina e da utilizzare proprio per cucinare, insomma, questa è la prima cosa. E qui via via, poi crescendo, le lattughe, i pomodori, e poi ancora le melanzane, i peperoni, le zucchine, i ravanelli, si può fare veramente, veramente di tutto, fino ad arrivare anche agli alberi da frutto. Ah, addirittura gli alberi da frutto. Sì, perché se il contenitore è sufficientemente capiente e diciamo la profondità è sufficiente, diciamo che anche le radici di un albero da frutto possono attecchire, e ci sono esempi, insomma, anche in Italia di orti pensili con piante da frutto anche alte una decina, certo, di metri, insomma. Quindi diciamo che non c'è più scuse per chi vuole fare un orto, anche se ha un piccolo terrazzo, in realtà adesso non ha più scuse e può farlo. Voi date anche dei consigli, per esempio, sulla stagionalità, su come coltivare, nel vostro sito internet? Sì, allora, noi abbiamo, diciamo, il sito è diviso in due parti, c'è un sito dedicato alla vendita di questi prodotti, proprio un e-commerce, e all'interno di questi e-commerce ogni prodotto è corredato di una scheda tecnica, quindi nella quale ci sono dei consigli, o addirittura in alcuni casi anche delle guide pratiche da scaricare per l'utilizzo dei prodotti, e dall'altra parte abbiamo un blog nel quale costantemente diamo indicazioni e consigli su come coltivare, e più in generale non solo consigli sull'agricoltura urbana, ma anche sull'autoproduzione più in generale, quindi sulle pratiche diciamo che portano le famiglie a fare le cose in casa, alcune cose in casa invece di comprarle al supermercato, insomma. Bene, allora andiamo un po' a chiudere. Ricordo il sito internet, che è www.ortosulterrazzo.it, se ho detto giusto. Sì. Ecco, e non fatevi problemi a consultarlo e anche a consultare il blog e a scrivere a Filippo e alla moglie Federica, che dai Colle Euganei ci lanciano questa nuova questa nuova proposta, non ci sono più scuse, si può da oggi coltivare sul terrazzo, ci sono tutti gli strumenti per poterlo fare. Grazie. Grazie, alla prossima. E concludiamo la trasmissione sempre con due notizie che in qualche modo sono in tema. Sono aperte a Padova le iscrizioni ai gruppi di acquisto per pannelli solari termici e fotovoltaici, nonché pompe di calore e climatizzatori ad alta efficienza organizzati da Legambiente. Vi sono tre gruppi, uno per Padova e l'area metropolitana, uno per l'area tra il Brenta e il Campo San Pierese e uno nella zona di Limena. Le adesioni sono raccolte fino al mese di giugno. Per informazioni ci si può rivolgere allo sportello energia di Legambiente Padova allo 049 856 1212 o visitare il sito internet appunto www.legambientepadova.it. Il riso nel piatto dei veneti rischia di non venire più dalle risaie della nostra regione, ma da quelle asiatiche. È il nuovo allarme che lancia Coldiretti Veneto, che denuncia come le tipicità venete, ovvero carnaroli, vialone nano e riso arborio, siano schiacciate dall'aumento del 36% degli arrivi dal Vietnam, del 34% dalla Thailandia, ma anche da India, Pakistan e Cambogia, per un record storico di circa 244 milioni di chili di riso importato l'anno scorso. Quindi un pacco di riso su quattro, denuncia Coldiretti, in Italia è straniero, ma il consumatore non lo può sapere per la mancanza dell'obbligo di indicare in etichetta la provenienza. Questa cosiddetta, tra virgolette, invasione ha scatenato la protesta degli agricoltori e si spiega anche con l'introduzione da parte dell'Unione Europea di un sistema tariffario agevolato a dazio zero. Le importazioni di riso lavorato indica dall'Oriente stanno facendo crollare la produzione in Italia, dove, secondo quanto rivela Coldiretti, le semine si stanno spostando sulla varietà giapponica, con gravi squilibri di mercato che spingono nello stato di crisi anche questo segmento produttivo storico. Il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, nel sottolineare che servono interventi comunitari tempestivi ed efficaci nei confronti delle importazioni incontrollate, chiede che venga attivata una clausola di salvaguardia per il ripristino dei dazi prima che sia troppo tardi. Con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima settimana. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.